E da quanto abita Rizzana? Da quando sono nato. E quindi da quanto? È 55 anni. Ti piace vivere qua? Sì. E ci sono dei rumori che ti danno fastidio, che ti piacciono? Dei rumori Dei che ti danno rumori caratteristici fastidio, che ti piacciono? che mi danno fastidio, no, sinceramente, che mi piacciono, vabbè, quando sento un po' di festa in giro, quando fanno le feste, quando fanno un po' di musica. E proprio il conto di dove vivi? Ma allora, pro che bene o male non siamo in centro di Rovereto, però siamo abbastanza vicini, per cui sia con i tram che con le biciclette ti puoi spostare in centro dove ci sono anche più servizi. Dopo ci sono tante associazioni qua di Sana, per cui anche per me, anche per i miei figli, non possono fare tante attività. I suoi vicini fanno molto rumore. No, No, sì, no, anch'io, sì. qualche cane diciamo che abbaia, ecco, ogni tanto, ma non so se considerarli vicini o. E è cambiato qualcosa, Lizzana, quando vivi qua? Da quando vivo? Beh, insomma, è cambiato parecchio, perché quando sono nato c'era solo la parte centrale qua del paese, dopo si è espansa sia, diciamo, verso ovest, sotto la strada statale, sia su verso Casteldante, per cui prima ci si conosceva tutti, era un paese più piccolino, e mentre adesso, insomma, non è che conosco tutti, per cui insomma anche i rapporti con le persone sono un po' cambiati, ecco.